Riconosci queste voci che salgo dalla fossa. Ed ora sogno i tuoi foto mentre una croce rossa. Ti svanita in nulla facendo solo offrire solo me. Ho bruciato, strappato quello che mi ricordava te. Ora per vivere mi basta anche l'aria. Non escludo un tuo ritorno, un passeggero con l'Italia. Tu mi hai fatto soffrire, tu mi hai buttato giù. Ti ho cancellato nel mio cuore ed ora non ci rientri più. Non chiamarmi fesso se per te sono complesso, sei una stronza. Ed ora ritorna nel cesso senza te. Ho comunque un futuro, ti mando 3 metri sopra il cielo, ma con un calcio in culo. Una volta sì, eri stupenda, quel che è stato ed ora io sono leggenda. Non mi sottometto a te, una macchina con la strada. Per te ho perso la testa, ma ora l'ho ritrovata. I really got to tell you, I'm losing confidence because I'm talking loud and bogus. I'm talking bogus because I'm angry with what I've experienced all my years through this, and I'm just angry. And everyone else has the right to be angry too, but that's just how I express myself. There it is.